Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto e un augurio di buone feste da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti con le nostre voci in scena, gli incontri con i grandi protagonisti dello spettacolo. La prima voce in scena è quella di un pianista che disco dopo disco si sta affermando tra musica contemporanea, colonne sonore e jazz. È nato a Pordenone nel 1976, è avvocato penalista, laureato con lode con una tesi in diritto penale sui casi di favoreggiamento del cliente da parte dell'avvocato difensore. Nei primi anni di attività artistica come pianista lavora alla musica per il teatro e alle sonorizzazioni, poi comincia a studiare le relazioni tra cinema e la musica. Nel 2006 pubblica il primo album, Dispari, nel 2008 Tabù e nel 2010 Iglu, con la collaborazione di artisti come Franz Di Cioccio, Gabriele Mirabelli, Bassi, Enzo Pietropaoli e Bebo Ferra. Nel 2012 il suo ultimo album, Viaggiatore Immobile. Lui è Remo Anzovino. Questo album, Viaggiatore Immobile, è nato proprio l'idea un pomeriggio in cui riflettevo da solo, seduto al mio pianoforte a coda in un posto di campagna dove io scrivo, dove c'è la cosa più musicale che un musicista possa avere a disposizione, che è il silenzio, e durante il quale, insomma, in questo pomeriggio ho pensato che a quante volte le persone, magari alla fine di un concerto, attraverso Facebook, mi dicessero: ma attraverso i tuoi brani mi faccio sempre dei grandi viaggi. Allora ho pensato che in fondo questo strumento che io suono, che è il pianoforte a coda, è uno strumento così intrasportabile che se fosse un viaggiatore non potrebbe viaggiare, cioè dovrebbe viaggiare solo con la fantasia. E così ho proprio immaginato di scrivere un disco in cui questo viaggiatore immobile, in quanto intrasportabile, avesse il suo bel cappello, la sua valigia e partisse per un viaggio. La particolarità di questo viaggio è che ero convinto di trovare dei paesaggi e invece ho trovato solo l'uomo. Penso che un dovere dei compositori e dei musicisti di oggi sia proprio quello di non dimenticarsi di parlare del proprio tempo. Quindi ho infranto un tabù mio, che era quello di avere voglia di fare un disco, di parlare di questo momento che stiamo vivendo, che è un momento particolare, che è un momento con tante sfumature, ma forse che è l'epoca storica nella quale l'uomo ha più bisogno di emozioni. Cioè, quello che colgo anche a volte leggendo i messaggi su Facebook, su Twitter, che c'è un grande bisogno di emozioni, che siamo tutti molto legati ai nostri desideri. Desideri che a volte ci fanno arrivare, ecco, fino allo spasimo, cioè fino alla voglia di vivere tutto, di vivere in fretta tutte le emozioni, consumarle il più possibile e vivere anche a volte momenti di solitudine. E io sono andato a lenire con la musica quel momento lì. Hai collaborato anche con Oliviero Toscani, che non è uno sempre generoso, è uno molto selettivo. Ma sì, direi Toscani è proprio un mito, perché è uno che ha assolutamente centellinato le sue collaborazioni. La storia della copertina di questo disco, che è stata fotografata, ideata e firmata da Oliviero Toscani, assomiglia un po' a una piccola favola, nel senso che entrambi fummo chiamati da un gruppo nato su Facebook che si chiama Fotomaniaci di Grandi Amanti della Fotografia ad essere i protagonisti di una giornata evento legata al tema della fotografia e delle nuove tecnologie. Oliviero Toscani faceva una conferenza prima del mio concerto e poi c'era il mio concerto piano solo, a cui lui chiaramente era stato invitato e assistito. Lì succedono a volte le cose magiche, perché a lui il concerto è piaciuto molto, abbiamo iniziato a sentirci, lui ha voluto sentire in anteprima il disco e mi ha proposto questo scatto di copertina, che è la migliore traduzione possibile di quello che volevo dire con Viaggiatore Immobile, perché lui proprio ha immaginato questo mio volto che si riflette all'interno del mantello, diciamo del coperchio del pianoforte a coda, e sfruttando il lucido, la luce di questa cosa, del mantello del pianoforte, del coperchio, ha praticamente fotografato il riflesso del mio volto, di me, dietro al pianoforte a coda. E in fondo ha voluto dire quello che è il significato più profondo di Viaggiatore Immobile, perché è vero che Viaggiatore Immobile è il pianoforte a coda, ma siamo un po' tutti viaggiatori immobili, nel senso che c'è sempre una parte di noi che qualunque cosa sta facendo è impegnata altrove, in un altro viaggio, che è il viaggio dei desideri, delle emozioni, cioè ognuno di noi vorrebbe realizzare delle cose che a volte si realizzano, a volte non si realizzano, e quello è il vero viaggio. E credo che Toscania ha saputo, come sempre, attraverso un'immagine enigmatica, geniale, tradurre quello che io volevo dire. Per me è un onore enorme, gli sono molto grato per aver soprattutto reso più importante il mio lavoro. In realtà poi, mentre facevo questo viaggio attraverso il mio pianoforte, ho pensato che potesse essere molto bello fermarmi a un'ora da casa mia, io sono di Pordenone, e fermarmi in un posto vero, non della fantasia, un posto reale che è lì, che esiste da 50 anni, che è la diga del Vajont, perché ho pensato che in 50 anni nessuno aveva mai scritto una musica importante per celebrare e per ricordare quei contadini lì, di cui all'epoca probabilmente non gliene importava niente a nessuno. E così è nata questa musica per pianoforte e coro virile, un coro maschile eccezionale, che è il coro polifonico di Ruda, diretto da Fabiana Noro, che è un coro che ha vinto moltissimi premi internazionali. E mi piaceva l'idea di lavorare, con, anche per la prima volta nel mio percorso discografico, con la voce, chiaramente usandola come un suono. La capacità dialettica dell'avvocato è inconfondibile, quindi tu sei musicista ma continui ancora a fare l'avvocato? Queste due cose, la musica e il diritto, continuano a parlarsi sempre molto bene tra loro, quindi sai, quando vedi due persone che chiacchierano così bene, sedute al bar tra di loro, chiacchierando tra di loro, perché interromperle? Insomma, al di là della battuta, non lo so, penso che alla fine o andrà così tutta la vita o sarà proprio il destino a scegliere, ma io non riesco proprio scegliere, perché mi appassionano molto entrambe. Soprattutto mi rendo conto, andando avanti con gli anni, perché veramente la prima intervista che ho fatto con te, anche ero all'inizio della professione tutto sommato, e insomma, più vai avanti nella professione più vedi comunque cose interessanti, storie comunque molto particolari, e alla fine però il lascito che questa professione ti dà, secondo me soprattutto quella del penalista, è quella comunque di poter vivere tutti i giorni a contatto con la cosa più reale, che sono le vicende umane. Desideri adesso? Apriamo, così sveliamo i sogni nel cassetto, apriamo il cassetto. Mi piacerebbe molto poter fare qualcosa di importante all'estero, cioè, perché penso che questo linguaggio possa avere la capacità di essere comunque un linguaggio italiano, Io sono molto legato alla ricerca nella melodia, cioè penso che comunque la ricerca che sto cercando di fare è quella di essere da un lato moderno e trasversale nel mettere insieme proprio il linguaggio che va dalla classica al pop, al rock, all'ambient, però dall'altro comunque di cesellare il tentativo sempre delle melodie che sono proprio del nostro patrimonio. Questa è la ricerca che sto facendo, mi piacerebbe molto potermi esibire, ecco, all'estero e portare questo linguaggio all'estero, spero che capiti al più presto, insomma. Basta che torni avvocato, poi torni. Sì, diciamo che infatti non possono essere tournée troppo lunghe, perché se no, voglio dire, lo studio bisogna sempre portarlo avanti, insomma. Ci troviamo tra pochissimo con una nuova voce in scena, quella di un grandissimo cantautore. Voci in scena. Ritorniamo insieme per la seconda voce in scena di oggi, che è quella di uno dei cantautori più amati, tornato alla musica dopo un periodo di silenzio. Una strada di terra che inizia ai confini del niente, e il mio tutto che ancora si ostina a cercare una via. È nato a Roma nel 1968, è laureato in filologia romanza con una tesi in codicologia. Comincia a esibirsi nei vari locali della capitale insieme a quella che poi verrà definita la nuova scuola romana: Daniele Silvestri, Max Gazzè, Federico Zampaglione, Riccardo Sinigallia. Il primo singolo è Dica nel 1996, l'anno dopo partecipa al Festival di Sanremo vincendo il premio della critica nella categoria Nuove Proposte con Capelli. Poco dopo esce il suo primo album Il Giardino. L'anno dopo è di nuovo al festival con Lasciarsi un giorno a Roma e vince un disco per l'estate con l'amico Max Gazzè e il brano Vento d'estate. Da lì album sempre apprezzati dalla critica: Sereno ad ovest, La cura del tempo, Nuovo mesto, Solo un uomo. Nel 2010 un dramma familiare che lo porta lontano dalle scene, ma sempre più impegnato sul fronte umanitario con una serie di importanti progetti in favore dei bambini in Africa. Nel 2011 torna con il solo tour. Nel 2012 il suo settimo album, Ecco, che porterà in tournée dal 12 gennaio. Lui è Niccolò Fabi. Il disco prima si chiamava Solo un uomo e diceva: è solo un uomo quello di cui parlo, del suo interno come del suo intorno, e continuo a fare da sempre solo questo. Quindi di quello che lo rende individuo e allo stesso tempo appartenente a una società, a un tempo, a un luogo, e quindi inevitabilmente condizionato da quello che gli ruota attorno. E quindi queste altre 10 canzoni sono altre 10 osservazioni, punti di partenza per raccontare quello che un po' vedo dentro e quello che vedo fuori, e quanto le due cose sono riflesse una nell'altra, che poi in qualche modo quello che vivi personalmente influenza il tuo sguardo nei confronti dell'esterno, e quello che vedi all'esterno finisce anche per influenzare il tuo stato d'animo e anche quindi quello che vedi dentro. Sono due cose quasi inseparabili, almeno l'ho sempre vissuta come inseparabili. Elementare come un bacio in una favola. C'è anche un po' di voglia di rendere le cose più elementari e voglia di sobrietà dal punto di vista esistenziale, ma anche dal punto di vista sociale. Lo dici anche chiaramente nella prima traccia. Da una parte la prima traccia, che poi nasce da una serie di considerazioni che fa il mio amico Stefano Diana in un libro che ancora non è stato edito e pubblicato, che si chiama Il Disillusionista. E sulla inevitabile sensazione di mancanza di punti di riferimento in un momento in cui lo sviluppo, l'evoluzione